bisogna fare un conto. Qua bisogna fare un conto. Se li conto, il palo è pronto. E se accetto, è mio dovere di portargli le candeliere. A Taddeo che vivi è questo, a Taddeo che vivi è questo. Ma quel palo, ma quel palo, Taddeo, che ho da far, che ho da far, che ho da far. Cai vacanzi, mio Dio, presto, non vi voglio disgustar. Cai Natal, signor mio resto, non vi voglio disgustar, no. Cai Natal, signor mio resto, cai Natal, signor mio resto, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar, non vi voglio disgustar. Thank you.

ma va ben che gli impari a proprie spese. Sentite in confidenza, ella mi va a dirvi che sposi m'amò d'amore. Ma detto infine, che a rendervi di lei sembrevi degno, ella ha fatto il disegno con gran solennità fra canti e suoni, e al tremolar dell'amorose fati, e di volervi crear so Pappataci! Pappataci, che mai sento? Pappataci, che mai sento? La ringrazio, son contento, son contento, son contento. Ma di grazia, Pappataci, e qual poi, che qual poi significar? A coloro che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col ben stesso. Ti ripaglia che non è stato cortesi innate son preparsi amar, gli italiani son cortesi innate son preparsi amar. Thank you. ancora ch'io mi rida di te. Tu impallidisci, schiavo gentil, a se pietà di me sei il mio brio, il mio tenero. Thank you. detto che un sicilero affetto portasse il suo tappeto. Fare una trama, for vendere un bei, a rischiar tutto per esser mia. Ai, ma quale, signor, vuoi poter dov'è? Sta preparando quello che è necessario per far la cerimonia. Ecco il suo schiavo che qui appunto ritorna, e a seco il foro dei pappataci. Ed onorarmi dunque la bella, a tanta fretta. E la vor che la sprona. Oh, benedetta. Leggi veder e non veder, riveder e non veder, risentire e non sentir, risentire e non sentir, per mangiare e per goder, per mangiare e per goder, di lasciare fare dir, di lasciare fare dir, io qui giù e poi son giù, io qui giù e poi son giù. Torce l'ampion e se manco al giuramento e se manco al giuramento più non abbia un pezzo sul mento più non abbia un pezzo sul mento io qui giù e poi son giù io qui giù e poi son giù Tu sei la mia, sono la mia. questo è un tradimento. Campati, contati, ne siamo, signor, ne siamo campati, signor. Io son Pappataci. Ma quei? Mangetaci. Ma voi? Lascia far. Ma io? Lascia dir. Voi me, che ho da far? Voi me, che ho da far? Restare o partir? Restar o partir del palo se resto, se parto il lampione, l'intoro Isabella, son qua quelle buone, ma tutto l'adatto, non so più che dir, ma tutto l'adatto, non so più che dir. Ma presto se cadi con noi di venir, ma presto se cadi con noi di venir, ma presto se cadi con noi di venir, ma presto se cadi con noi di venir. Mio signore, cosa fate? Pappataci, come dite? Mangetaci, pappataci, pappataci. Di vedere non veder, di sentire non sentir, io rigiuro e poi scongiuro. Pappataci lo sta fuori. Che gli è fatto? Che come fatto? Che tagliare se ne va. Come, come, odio di cuore, presto, fuori, e amore, fuori. Questo scorma lo sta fuori. Tagliare, per la fede mi perdona. Oh, la voce vostra, voglia non sarà. 歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。